terra era piatta e il sole ruotava intorno ad essa. Sulla montagna più alta del mondo, sempre avvolta da un mantello di nuvole, era situata la dimora degli dèi. Uno di essi era Mauro Picotto, Orgasmatron. Nell'Olimpo riecheggiava la sua musica.

ed ebbe da lei Eros, il dio dell'amore. Orgasmatron, nell'Olimpo degli dei, stava suonando Mauro Picotto. We'll be right back.

Venere per i Romani, Afrodite per i Greci. La dea della bellezza e dell'amore sensuale, quella notte fu attratta dal richiamo musicale di Mauro Picotto, Orgasmatron, nell'Olimpo degli Dei. We'll be right back. era la bellezza, la grazia, la leggiadria. Lui era la forza, la turbolenza, la discordia. Si amarono contro il volere di tutti gli dèi. Orgasmatron! Sulla vetta dell'Olimpo stava suonando Mauro Picotto. Venere e Marte. Tra la dea dell'amore e il dio della guerra fu subito Orgasmatron. Nell'Olimpo degli dei stava suonando Mauro Picotto. Venere consumarono il loro amore nel palazzo di Efesto, dove riecheggiavano le prodezze musicali di Mauro Picotto. Febo dall'alto li vide e lo riferì al dio del fuoco, che infuriato meditò vendetta. Oh, cassatron! Nell'Olimpo degli dei.